peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi parliamo di orchestra, orchestra come forma. L'orchestra ha naturalmente una tradizione principe nella storia del jazz e guardando un po' la storia degli ultimi 50 anni praticamente si può sintetizzare che oltre naturalmente a quella che è stata l'evoluzione dell'esperienza free che ha iniziato con il primo stato Braxton probabilmente a elaborare una forma compiuta di costruzione orchestrale e quella che è rimasta più tradizionalmente come punto di collegamento con le grandi orchestre dell'era swing è stata la tradizione di Ted Jones e Mel Lewis, che deriva appunto dall'esperienza di Woody Herman. E questo tipo di sintassi e anche di organizzazione dell'orchestra si è mantenuto e negli ultimi tempi, negli ultimi anni, ha avuto un'evoluzione e una conferma anche attraverso personaggi di primo piano. Ascoltiamo, l'occasione è quella appunto di alcune pubblicazioni recenti, alcune decisamente importanti, e che possono rappresentare anche una sorta di sintesi di quello che avviene attualmente sulla scena dell'orchestra jazz. Il primo esempio, un disco uscito recentemente, però qualche mese fa, ormai in Italia è arrivato forse con qualche ritardo, la Vanguard Jazz Orchestra. La Vanguard Jazz Orchestra è l'orchestra organizzata, costituita da Bob Brookmeyer. Brookmeyer, oltre che uno straordinario trombonista, lo ricordiamo per la sua collaborazione con Jerry Mulligan, famoso gruppo che negli anni 50 vedeva appunto la presenza del baritono e del trombone a pistoni, questo era lo strumento di Brookmeyer. Più conosciuto come trombonista, ma sicuramente meno per l'importanza, perlomeno, come leader di orchestra. Arrangiatore, compositore e leader di un'orchestra sua, appunto questa Vanguard Jazz Orchestra. Brookmeyer è morto pochi mesi fa ed è sicuramente una delle perdite più importanti. Purtroppo è stato abbastanza poco riconosciuto in vita, sicuramente molto apprezzato e conosciuto nell'ambito dei musicisti, nell'ambiente musicale e appunto anche grande didatta è stato. E l'orchestra si è mantenuta quindi eseguendo partiture, numerose peraltro, proprio sue di Brookmeyer, anche con arrangiamenti. Brookmeyer ha scritto musica per molte altre formazioni, a cominciare per esempio dall'orchestra di Ted Jones e Mel Lewis, e poi dopo appunto ha avuto una lunga esperienza con questa orchestra. Sono personaggi anche legati all'avanguardia che sono usciti da questa scuola, formazione, orchestra, per esempio John Hollenbach, che era sicuramente un uomo di punta dell'ultimo periodo dell'orchestra di Brookmeyer, e oltre a batterista era anche una sorta di sostegno anche nella conduzione. È uscito appunto un disco dedicato, si intitola Overtime, ed è dedicato alle musiche di Brookmeyer. Ascoltiamo un paio di esempi che sono piuttosto rappresentativi. Il brano d'apertura, che dice, direi proprio che è un punto di congiunzione tra le esperienze delle orchestre di Woody Herman, e con quello che invece è un tessuto orchestrale, un tessuto di arrangiamenti molto più moderno. Questa era l'orchestra, la Vanguard Jazz Orchestra, che è stata guidata per tanti anni e fondata da Bob Brookmeyer. È uscito questo lavoro, Overtime, che raccoglie alcune delle partiture eseguite o anche non eseguite, inedite, scritte da Brookmeyer. Un sassofonista da notare, l'assolo del contralto che abbiamo sentito, Dick Oates, decisamente in parte. E quindi, però direi che la cosa principale è proprio questa tessitura molto stretta, dove lo spazio per i solisti è estremamente definito, quindi un equilibrio orchestrale di alto livello. E naturalmente molto collocato anche da un punto di vista sia storico che stilistico. Questa scuola di Bruckmeyer ha generato molti, molti personaggi anche di primo piano, ad esempio Maria Schneider, che ha anche scritto in giovane età delle partiture, degli arrangiamenti per Bruckmeyer, ha comunque collaborato con l'orchestra di Bruckmeyer, poi anche con quella di Gil Evans, e, che come dire, anche questa è imparentata in qualche modo con questo tipo di visione orchestrale, anche se naturalmente le personalità artistiche si esprimono sempre in maniera diversa. Maria Schneider è sicuramente la protagonista dell'orchestra negli ultimi probabilmente 20 anni, si può dire almeno, forse anche di più, e ha visto quest'anno l'uscita di un nuovo lavoro. Non è naturalmente, non escono lavori tutti gli anni della Schneider, perché sono partiture piuttosto dettagliate, molto, molto, come dire, importanti anche nelle intenzioni. Naturalmente un disco salutato con tutti gli onori da tutta la critica internazionale, e già si propone come una delle cose più importanti uscite quest'anno, se non la più importante. È una conferma di quella che è appunto stata il suo percorso artistico fino adesso, quindi un livello decisamente alto. E, è interessante notare come questo tipo di visione orchestrale sempre di più si avvicina a quello che è la costruzione musicale per orchestra, anche usata nell'ambito della musica classica, nella musica americana in generale, soprattutto penso a Aaron Copland, ma anche a Leonard Bernstein, o a musicisti appunto che hanno segnato quello che è un linguaggio più autonomamente definito rispetto a quello europeo, alla tradizione europea. E ascoltiamo adesso da questa orchestra una composizione titolata The Thompson Fields, un paio di brani, e dove gli assoli che ascolteremo saranno al contralto Steve Wilson, e al trombone nel secondo l'assolo di Ryan Keberle. Musicisti, come dire, conosciuti in questa formazione, tutto sommato perlomeno, non sono certo tra i più famosi, sicuramente però ci sono anche musicisti importanti, insomma conosciuti anche per loro formazioni. Penso per esempio a Donny McCaslin al tenore, che da tempo collabora con l'orchestra di Maria Schneider, oppure anche Gary Versace, anche lui un veterano della formazione della Schneider, che suona in questo caso la fisarmonica, pianista, ma tastierista, ma in questo caso usa la fisarmonica, un strumento anche col quale è decisamente capace, mentre al pianoforte Frank Kimbrough, che anche lui è un pianista e leader di orchestra importante. Ascoltiamo queste due composizioni. Thank you. Era l'ultimo lavoro di Maria Schneider, dell'orchestra di Maria Schneider, The Thompson Fields, uscito recentemente. E un altro personaggio, in questo caso decisamente poco conosciuto, penso tra l'altro che sia il suo primo lavoro come leader, è un musicista che fa parte dello stesso entourage. Anche lui ha avuto una formazione sia con Bruckmeier che poi con Maria Schneider. Si tratta di J.C. Sanford, un arrangiatore. Tra l'altro è colui che insieme a Darty James Argou, uno dei band leader più importanti con la sua formazione, con i suoi progetti, tra l'altro l'ultimo lavoro l'abbiamo ascoltato diversi mesi fa, un anno fa più precisamente, e appunto fa parte di questo tipo di formazione, di questo visuale, e ancora una volta, forse in maniera ancora più marcata, lo si può avvicinare a quella che è una scrittura che diventa difficile distinguere quale influenza ha determinato il jazz e la sua storia, e quale invece anche l'ascolto della musica americana da compositori di colonne sonore di film appunto a quelli che sono che fanno parte della ormai classica musica classica americana come Charles Ives o Aaron Copland. Questo lavoro è stato salutato anche questo decisamente con favore, specialmente la critica americana. E devo dire che è una buona sorpresa, una bella sorpresa. Ascoltiamo un paio di brani, alcuni momenti, dove emerge un po' il carattere particolare di questa musica, ma anche la personalità diversa che ha J.C. Sanford. Il disco si intitola Views from the Inside. Thank you. Era l'orchestra di J.C. Sanford, questo lavoro uscito l'anno scorso, Views from the Inside. Qualche nome di questa, da questa orchestra, anche l'ambiente è quello legato a una sorta di ricerca di linguaggi legati al mainstream, come per esempio Matt Holman alla tromba, oppure Dan Willis al sax soprano, all'oboe. Dan Willis, tra l'altro, è stato protagonista negli ultimi tempi di un recupero, una revisitazione di molti lavori di Satie in forma jazz, con risultati decisamente apprezzabili, che abbiamo ascoltato tra l'altro anche a Salpinaz. Poi ecco, alla batteria, tra l'altro, si sente in primo piano il ruolo del batterista, che è Satoshi Takeishi, sicuramente un nome tra i più importanti nelle percussioni e nella batteria. E questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione la potete riascoltare, trovare anche le indicazioni discografiche nel nostro sito radiocittafujiko.it, alla sezione playlist. Salve a tutti e alla prossima. Salpinaz. Jazz on megahertz. Salpinaz. Alla console Sandro e Alfredo.